24 mattino con Irene Zerbini. È lunedì, buona giornata, benvenuti, bentornati. Se seguite sempre questa rubrica, la chiacchierata, la conversazione con i corrispondenti stranieri e le loro osservazioni, le loro analisi, il loro modo di vivere e di vedere l'Italia. Oggi con noi Marek Lenert, il corrispondente per Polski Radio, la radio pubblica polacca, vive da quasi 30 anni in Italia. Buongiorno Marek. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Racconti l'Italia non solo per la radio con i tuoi pezzi, ma addirittura leggendo i giornali italiani per loro, cioè curi una rassegna stampa in italiano per Polski Radio. E cos'è che ancora riesce a colpirti? Questa rassegna stampa è una cosa molto interessante, in verità ne sono due. Perché per la terza rete della radio pubblica, la cosiddetta Troika, che è più leggera della terza rete della radio RAI, prediligo i temi più leggeri, appunto, più curiosità che non la politica con la P maiuscola. Invece la rete Ammiraglia, la radio 1, polacca, vuole sapere le cose più serie dall'Italia, ovviamente cercando gli echi degli avvenimenti polacchi, sono quasi zero, ogni tanto capita, ultima volta con il duello fra Jerzy Buzek e Mario Mauro per la presidenza del Parlamento europeo, e lì appunto si vedeva l'atteggiamento molto diverso dei polacchi e degli italiani. Gli italiani, solo i politici tifavano, comunque discutevano di questa cosa, invece la Polonia tutta non solo tifava per l'ex primo ministro Jerzy Buzek, ma era coinvolta in questo duello. Ma la Polonia, pensavamo, fosse una di quelle nazioni che tira il freno a mano in tante istanze europee, invece ci stai dicendo la popolazione segue con grande coinvolgimento quello che succede. Sì, con grande emozione. Devo dire che l'Italia, il rapporto dei polacchi verso l'Italia, italiani, non viene visto nel quadro dei rapporti europei, è una storia più lunga, Copernico che studia a Padova, eccetera, eccetera, quindi è una cosa ormai acquisita e i polacchi vedono queste somiglianze in varie cose, a partire da certo disordine, dell'amore per l'improvvisazione e della buona stella anche. C'è ancora uno stereotipo dell'Italia, degli italiani in Polonia, che riguarda ovviamente la cucina italiana e la moda. C'è la pizza mafia, che si chiama mafia. Devo spiegare sempre che, guardate, non tutta Italia è mafia, non tutti i soldi che vengono dall'Italia provengono dalle attività illecite. Ho visto in qualche negozio le scarpe fatte in Cina poi per quella ditta polacca col nome Roberto Tucci, forse non tutti se lo ricordano. Roberto Tucci, oggi cardinale, per molti anni era direttore della Radio Vaticana. Beh, sarà contento, gli hanno intitolato perfino delle scarpe, e per il suono vagamente italiano che fa vendere di più. E ancora dalla Polonia sappiamo che per la radio polacca è seguito anche la questione del Super Enalotto, che ha un risvolto polacco. Sì, questa è una cosa curiosissima, interessante. Ovviamente in questi giorni se ne parla molto qui in Italia e io nelle mie corrispondenze quasi tutti i giorni, perché prima di martedì, di giovedì e di sabato, e poi in questi giorni dico non è ancora uscito il 6, e ovviamente si parla delle somme da vincere di jackpot, che è enorme, che in Polonia suscita sogni, fantasie varie, fra cui anche la reazione di uno dei consiglieri del primo ministro polacco, un economista, che ha detto: ma questa bella somma, che più di 140 milioni di euro, potrebbe esserci utile. Si tratta di questo che i polacchi cercano di vendere, ma inutilmente, è una cosa molto difficile. gli storici cantieri navali di Danzica, dove nacque Solidarnosc e tutto il movimento che è poi passato alla storia come quello che ha travolto comunismo nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Allora questo consigliere economico del primo ministro dice, fa appello quasi a chi vincerà futuro questo vincitore, dicendo: ma se avrà questa somma pensi anche ai cantieri di Danzica e ci dia una mano. Visto che hanno inghiottito circa 2 miliardi di euro fino a questo punto, è interessante, sono sicura che è un appello che sarà raccolto, lo rimbalziamo. Se vincete il jackpot, ricordatevi di investire o addirittura di acquistare i cantieri di Danzica, perché no? Marek Lenert, sei decisamente simpatico, grazie per il tuo tempo. Grazie a voi, a presto. E questo era Profeta, e chissà, forse ha portato fortuna nel fine settimana questo giornalista polacco al vincitore e vincitrice del jackpot. Si ricordi di Danzica, dice lui, era Marek Lenert, corrispondente per Polski Radio, la radio pubblica polacca, vive da quasi 30 anni in Italia e oggi è stato il protagonista del nostro appuntamento con i corrispondenti stranieri. 17 minuti dopo le 8, bentornati, 24 mattino, @radio24.it, la nostra email per approfondire le tematiche che tocchiamo ogni mattina. Parleremo della possibilità di difendersi anche da grandissime aziende multinazionali che posseggono naturalmente team di avvocati agguerriti. Stiamo parlando in questo caso di Google, ma prima vogliamo soffermarci su quella che è stata definita ancora una volta la tragedia del mare. Sembra che l'indifferenza sia ormai generalizzata ovunque e abbiamo disturbato oggi i nostri ospiti che ci raccontino in prima persona cosa succede in Eritrea. Ringrazio per il suo tempo Mehari Desbele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Dania Vallone, presidente dell'ASPER, Associazione per la tutela dei diritti umani del popolo eritreo. E dunque comincerei proprio nel raccontare, mentre i politici in Italia si rimbalzano le responsabilità di quanto accaduto, deve intervenire l'Europa, dice qualcuno, è colpa di Malta, quindi ci si concentra sul mancato soccorso in mare di questo barcone, come vengono definite queste zattere, possono essere a volte anche dei pescherecci dismessi, in cui hanno perso la vita almeno 75 persone, alcuni cadaveri sono stati già ritrovati e ripescati, forse altri non emergeranno mai più. Ma da cosa fuggono questi eritrei? Cosa succede in questa nazione che tra l'altro è legata a doppio filo alla storia italiana? Mehari Desbele. Ma allora, probabilmente non si vuole sapere esattamente cosa esiste in Eritrea. In Eritrea esiste un regime dittatoriale che ha soffocato il popolo eritreo e soprattutto i giovani eritrei. Sappiamo l'Eritrea, molti sanno che l'Eritrea è un paese che ha lottato per l'indipendenza dall'Etiopia per 30 anni, quindi tutto il popolo eritreo aveva contribuito a questa indipendenza sperando di vivere nella pace, nella democrazia e nella giustizia. E tra l'altro questo dittatore, Isaias Afewerki, a sua volta ha un passato, ha dei trascorsi nel fronte di Liberazione Nazionale, cioè ha lottato per l'indipendenza del suo paese. È stato sempre un leader del fronte popolare per la liberazione dell'Eritrea, quindi ha contribuito nella liberazione dell'Eritrea. Il problema si pone però una volta liberata l'Eritrea, non vuole mollare il potere. In Eritrea non ci sono stati, l'Eritrea è attraverso il referendum nel 93 l'Eritrea è diventata indipendente. Dal 93 ad oggi non ci sono mai state elezioni. È sempre stato presidente dell'Eritrea senza che viene eletto, si è formato come un governo provvisorio, dopodiché è diventato permanente. Col sostegno dei militari. Dania Vallone, lei è presidente dell'ASPER, quanto tempo ha trascorso in Eritrea? Io ho vissuto in Eritrea per 10 anni, dal 92, cioè subito dopo l'indipendenza, prima del referendum, fino al 2001, anno in cui poi c'è stato il rafforzamento della svolta militare, dittatoriale, scusate, e ci sono stati una serie di persecuzioni su dissidenti politici, sulla chiusura della stampa libera, persecuzioni religiose, e c'era stata qualche avvisaglia anche negli anni precedenti, ma diciamo che il 18 settembre del 2001 segna proprio una data storica per l'Eritrea, in quanto è stato visibile, anche se relativamente agli occhi del mondo, che effettivamente questo liberatore dell'Eritrea, Isaias Afwerki, si era trasformato in un tiranno di una delle dittature più feroci ormai nel mondo. Si è accennato nei rapporti internazionali alla totale mancanza di libertà d'espressione in Eritrea. In realtà, per trovare notizie bisogna appunto navigare o cercarle nei siti internazionali, perché in italiano e in Italia si racconta pochissimo. Voi parlate di dittatura spietata, sanguinaria. Cosa succede per esempio ai giovani in Eritrea? Perché erano giovanissimi anche gli occupanti di questo barcone, lo si evince anche dall'età dei 5 che sono sopravvissuti. Certamente, i giovani stanno scappando dall'Eritrea perché l'Eritrea è diventata un inferno, cioè la loro unica prospettiva è quella di essere portati a Sawa, che è un centro di addestramento militare dove i ragazzi vengono portati per un servizio militare forzato a non a termine, cioè non si sa quando ritorneranno questi ragazzi, e molto spesso anche ragazzi minorenni vengono prelevati dalle loro case, all'uscita da scuola, e vengono portati in questi posti sconosciuti a molti, posti di confine dove spesso vengono usati anche per lavori forzati. Le famiglie non sono informate di questo, non hanno altra alternativa a questo, ecco perché scappano questi ragazzi. E vorrei aggiungere, e in questi centri cosa succede? Ai lavori forzati a cui lei ci ha fatto riferimento, la giornata, lo scopo di questi centri è l'istruzione militare. L'inizio è senz'altro un addestramento reclute durissimo. Dopodiché questi ragazzi vengono, cioè ufficialmente si dice che in questi centri di addestramento continua anche la loro educazione, continuano a studiare, in realtà molto spesso vengono usati in progetti organizzati dal governo, a volte spesso finanziati dall'estero, progetti in cui poi si ha questa manovolanza a costo zero, proprio perché questi ragazzi vengono usati come schiavi. E secondo i rapporti internazionali le torture sono frequenti e chi non ce la fa viene anche fucilato sul posto. Certo, Vorrei salutare a questo punto, Dania, l'onorevole Rocco Buttiglione, che si è appena unito al nostro dibattito. Buongiorno, benvenuto onorevole. Buongiorno. Senta, lei è stato uno dei pochi che ha fatto un distinguo importante. Cioè, i morti di questo barcone non sono immigrati clandestini, sono rifugiati politici. Cosa intendeva sottolineare con questo? Che noi abbiamo il diritto di dire a chi vuole emigrare in Italia: no, tu non vieni, non c'è posto. Non abbiamo invece il diritto di dire a chi fugge davanti alla morte o davanti alla prigione o davanti a persecuzioni gravi di dirgli: no, noi non ti riaccogliamo, ti ricacciamo nell'inferno da cui tu vieni. Pensate agli ebrei al tempo del regime nazista, che si presentavano alla frontiera svizzera. Era lecito ricacciare indietro oppure no? Erano immigranti clandestini? No. Erano rifugiati politici. Allora questi erano rifugiati politici, avevano diritto alla protezione internazionale. Non accoglierli è un crimine contro l'umanità. In questi giorni si è fatto appello un po' alle emozioni, quasi fosse una sorta di compassione, quasi fosse una sorta di bontà quella di accogliere questi rifugiati politici che arrivano dall'Eritrea. Lei invece sottolinea: attenzione, senza dubbio ci sono dei principi di umanità che sono alla base anche della legislazione internazionale, ma è soprattutto il diritto internazionale, gli obblighi internazionale ai quali l'Italia non deve sottrarsi. E invece lo facciamo sistematicamente, onorevole. Lo facciamo sistematicamente anche perché abbiamo commesso un errore gravissimo. Noi potremmo rimandare indietro in Libia i barconi dei disperati? Secondo me potremmo benissimo, se la Libia fosse un paese che sottoscrive la Convenzione sulla protezione dei diritti dei rifugiati di Ginevra del 1951, perché allora potremmo dire: perché venite voi i barconi? Andate in Libia, andate agli uffici libici, fatevi rilasciare un passaporto internazionale come rifugiati e poi venite con i mezzi normali. E invece la Libia non sottoscrive. Perché la Libia i diritti dei rifugiati non li riconosce. I rifugiati in Libia sono trattati come carne da cannone, non dirò peggio che in Eritrea, ma non molto meglio che in Eritrea. Abbiamo dato 6 miliardi di euro, avevamo 6 miliardi di buoni argomenti per convincere la Libia a sottoscrivere la Convenzione di Ginevra. Adesso che argomenti abbiamo per convincerli? Perché Gheddafi alle convenzioni umanitarie non è molto favorevole, come è noto. E poi lei parla di vergogna per una nazione cristiana. Non possiamo non riconoscere le nostre responsabilità come italiani, in particolare del governo, dice lei, onorevole Buttiglione. Ma Frattini e altri membri del governo hanno detto è l'Europa che deve intervenire. Giustissimo, ma l'Europa è disposta a intervenire. Una volta, immaginiamo che noi riusciamo a convincere, costringere Gheddafi a riconoscere i diritti degli rifugiati, che questi qui arrivano secondo le procedure internazionalmente previste. Dopo, secondo le medesime procedure, a livello europeo si dice l'Italia fa, mettiamo il 10% della popolazione, un po' di più, della popolazione complessiva dell'Unione, si prende il 10% dei rifugiati, la Germania fa il 15%, si prende il 15%, la Finlandia fa l'1%, si prende l'1% dei rifugiati. E naturalmente esistono anche accordi europei da mettere con più forza in vigore, di cui perseguire con più forza la realizzazione, per un controllo comune delle frontiere, per una divisione delle spese e degli impegni in questo settore. Certo, ci vuole coraggio. Per esempio, in questo settore sarebbe possibile, anche prima dell'approvazione del Trattato di Lisbona, una politica europea più comune, cioè una cosiddetta passerella, va usata per passare in questo ambito a una dimensione più comunitaria. Ma l'Europa si muove se noi la spingiamo, se noi non la spingiamo l'Europa non si muove. E tra poco approfondiremo anche questo aspetto della passerella. Al 349-238-6666 i vostri interventi. Si ha la sensazione invece che anche questa tragedia sia stata accomunata alla sensazione di invasione che molti in Italia percepiscono, stando anche agli ultimi sondaggi, nonostante le cifre poi non confermino questa sensazione di paura, di terrore, di insicurezza che pervade un segmento della popolazione e soprattutto grande indifferenza. Irene Zerbini al microfono, ancora buongiorno, benvenuti. Insulti anonimi via internet, una pratica che genera sofferenza, forse un'era che sta per finire, ne parleremo alle 8.45. Prima però vogliamo tornare al barcone, come viene ormai denominato. A bordo c'erano anche 3 donne incinte, 2 di loro prima di morire hanno perduto il bambino che portavano in grembo, hanno abortito per la fame, la sete, la sofferenza di un viaggio terrificante durato 21 giorni. A raccontarlo è Titi Tazrar, ripresa dal Corriere della Sera, 27 anni eritrea, ed è l'unica donna sopravvissuta alla tragedia nel canale di Sicilia. In Eritrea anche lei fa riferimento a quella che lei chiama Accademia Militare, che forse, dice il giornalista, è proprio la durissima Sawa, dove le donne subiscono ogni tipo di violenza. Era una vita che non mi piaceva, si limita a dire lei, volevo e voglio una vita diversa. Non parla o preferisce tenere per sé storie di violenza in Eritrea durante il cammino verso l'Italia, ma non parla e preferisce tenere per sé, o anche fuori dai confini gli eritrei hanno paura a parlare e in Italia sono liberi di denunciare quello che hanno vissuto? Dania Vallone. Sì, questo è il problema principale di tutti gli attivisti per i diritti umani che si occupano di eritrei, sia eritrei che italiani. In effetti, che cosa è successo? Questi metodi usati dalla dittatura eritrea purtroppo sono stati esportati anche in Europa e attraverso l'ambasciata eritrea, che quindi rappresenta il regime dittatoriale eritreo, è stata istituita una rete ben strutturata anche fuori dall'Eritrea, dove le persone, i singoli individui, vengono controllati in tutto e per tutto anche qui, fuori dall'Eritrea. Quindi l'Eritrea è un paese piccolo, Stiamo parlando in tutto di 4 milioni di abitanti, di cui 3 milioni in Eritrea e diciamo poco più di 1 milione in diaspora. Non è... Sono incredibili le cifre e le proporzioni tra abitanti e coloro che sono fuggiti. Esattamente. E attraverso l'ambasciata eritrea c'è questo sistema di controllo per cui un giovane che scappa da queste persecuzioni in Eritrea si trova dopo il calvario di tutto il viaggio, quindi deserto, probabilmente in Libia, un altro paese, la casetta del mare, i rischi del Mediterraneo, il CPT in Italia, la completa mancanza di assistenza e di protezione in Italia, si trova molto probabilmente a essere riavvicinato da coloro dai quali era fuggito. E quindi una dichiarazione, una testimonianza da parte di queste persone è praticamente impossibile per la paura che loro hanno. Loro sono terrorizzati delle ripercussioni che tutto ciò possa avere sulle famiglie rimaste giù in Eritrea. E non solo. Diciamo la diaspora di vecchia generazione, anche coloro che sono diciamo in qualche modo legati al governo eritreo, anche se a un certo punto volessero aprire gli occhi e diventare a loro volta dissidenti, sono facilmente ricattabili. È gente che ha lavorato 30 anni in Italia per costruirsi, per farsi una piccola casetta in Eritrea, gli viene tolta immediatamente questa proprietà. Ecco perché nessuno parla ed ecco perché noi abbiamo fatto questa associazione, che è formata diciamo da parenti e amici di persone che sono scomparse in Eritrea e fuori anche dall'Eritrea, e cerchiamo di dare voce a chi voce purtroppo non ne può avere. Onorevole Buttiglione, lei ha paragonato questa situazione, questo mancato soccorso in mare soprattutto, alla situazione degli ebrei in fuga dal regime nazista. Ebbene, questo le verrà rinfacciato, perché già qualcuno si è offeso, e io sto parlando in questo caso di Osvaldo Napoli del PDL, e ha commentato un articolo comparso su Avvenire in cui si faceva questo parallelo. Lui ha detto: il paragone è ingiurioso tra il destino degli immigrati e l'olocausto del popolo ebraico, offende atrocemente gli ebrei, lo Stato di Israele e lo Stato italiano. Cosa risponde? Che evidentemente non ha capito. Io non paragono nessuno con nessuno. Io dico semplicemente che se questi eritrei che fuggono davanti alle persecuzioni e alla morte non vengono soccorsi o vengono respinti come se fossero immigrati illegali, noi commettiamo lo stesso reato contro il diritto internazionale che commettevano quelle autorità svizzere che in certi periodi, non in altri per fortuna, ma che in certi periodi purtroppo, riconsegnavano ai nazisti gli ebrei che erano fuggiti in Svizzera. Quindi Osvaldo Napoli, se ha parlato di me, non credo, perché mi sembra una persona intelligente, non ha capito che il paragone... No, ha parlato di un articolo sull'Avvenire. Il paragone era... credo che abbia fatto un paragone generico, non abbia fatto riferimento a me. Se ha fatto riferimento a me, mi spiace per lui, perché non ha capito che il paragone non era con i nazisti, era con le autorità di un paese neutrale, la Svizzera, che riconsegnavano ai nazisti gli ebrei in fuga, che erano rifugiati politici e non immigranti clandestini, proprio come gli eritrei in questo caso, eritrei che tra l'altro... Ma l'Italia ha qualche responsabilità anche di carattere coloniale riguardo all'Eritrea e alla nazione che nel frattempo ha conquistato l'indipendenza, secondo lei, onorevole Buttiglione? Certo che abbiamo delle responsabilità. C'è una storia che ci ha uniti per molto tempo. Devo dire che l'Italia in Eritrea è stato una potenza coloniale abbastanza buona, diciamo così. Non esiste nel popolo eritreo un rancore, o almeno un rancore forte, contro gli italiani. Anzi, semmai gli eritrei hanno dovuto pagare, dopo l'annessione all'Etiopia, per il rapporto troppo positivo che hanno avuto con gli italiani. Non dimenticate che molti eritrei hanno combattuto le nostre guerre, che migliaia sono caduti, sono stati uccisi nelle guerre dell'Italia, e che guardavano l'Italia con speranza, immaginando che fosse un paese che aveva memoria storica e che ricordava come sono intrecciate le nostre storie. Invece, noi abbiamo fatto molto poco per sostenerli e proteggerli. Prima, quando l'Etiopia ha tentato con la forza di imporre il proprio potere sulla terra eritrea, e poi dopo, quando si è sviluppata progressivamente la terribile dittatura che oggi affligge l'Eritrea. E di cui l'Italia si sta praticamente lavando le mani, un po' come il Belgio e lo Zaire, cioè un paese che prima viene sfruttato dal punto di vista coloniale e poi in qualche modo viene disconosciuto. Ma il Belgio ha qualche scusante, perché il Belgio può dire i congolesi non ci vogliono, ci odiano, hanno un ricordo così cattivo di noi che è meglio che non ci facciamo vedere. In Eritrea no, in Eritrea il ricordo degli italiani complessivamente è buono e gli eritrei vorrebbero che l'Italia facesse qualcosa per loro. C'è una speranza, almeno nella generazione più vecchia, ma credo anche fra i giovani, verso l'Italia o verso l'Europa, perché è ovvio che l'Italia da sola può fare sempre poco. L'Italia deve agire spingendo l'Europa a una politica del Corno d'Africa che non c'è, perché delle priorità, diciamo così, è evidente che il Corno d'Africa e l'Eritrea non fanno parte delle priorità di questa Commissione europea. E lo dico con dispiacere perché sono amico di questa Commissione, ma per differenti ragioni non si riesce a delineare una politica europea. Senta, c'è una domanda. Dalla spinta necessaria per farlo. C'è una domanda di un ascoltatore e dice: sì, onorevole Buttiglione, saranno anche rifugiati politici, ma contestualmente, le chiede questo ascoltatore di Radio 24, prima ci deve essere una presa di posizione determinata nei confronti del paese da dove provengono i rifugiati, altrimenti si proponga l'eliminazione delle frontiere o addirittura l'eliminazione del passaporto. No, nessuna eliminazione del passaporto, anche perché ovviamente il passaporto serve, tra l'altro, proprio per distinguere tra il rifugiato politico e l'immigrato clandestino. Abolire le frontiere significa dire chiunque vuole venire in Italia venga, ne arrivano troppi, invece di aiutarli a uscire dallo sottosviluppo precipitiamo noi nel sottosviluppo. Invece una politica intelligente è una politica la quale dice: noi per solidarietà umana accogliamo chi a casa sua è perseguitato, accogliamo non l'immigrato clandestino ma il rifugiato politico. E poi immigrati. Ma a parte noi è proprio un obbligo internazionale, insomma. Questo è un obbligo internazionale. Mentre noi possiamo dire sì o no agli immigrati clandestini e farne venire tanti quanti ci servono, quanti servono a noi e servono anche a loro naturalmente, ma quanti servono a noi? Davanti a chi fugge, davanti alla persecuzione, non possiamo dire di no, è inumano dire di no. È come ributtare in mare uno che sta annegando. Io non ho il dovere di accettare un ospite a casa mia, ma se uno sta annegando davanti a casa mia, io ho il dovere di permettergli di arrivare a riva e poi rifocillarlo dopo che è arrivato a riva. Esatto, e poi esaminarne al limite la situazione e determinare poi che abbia i criteri, i requisiti o meno per... Invece non è un rifugiato politico, è un furbo il quale vuole entrare clandestinamente in Italia, lo rimandi indietro. Ma comunque prima il soccorso in mare è un obbligo. Perché c'è anche un altro elemento della legge internazionale. Il soccorso in mare è dovuto. In ogni caso non puoi lasciar morire la gente in mare. Poi dopo magari se sono dei criminali li mandi in galera, li rimpatri, fai quello che vuoi, ma non è possibile lasciar morire. È un obbligo internazionale. Grazie onorevole Buttiglione. Vorrei concludere con Mehari Desbele, che è membro del Partito Democratico Eritreo. Mehari, lei ha sentito il politico italiano, l'onorevole Buttiglione, dire: c'è un rapporto cordiale, non c'è un ricordo terribile del dominio, diciamo così, italiano in Eritrea. L'Eritrea contava sul fatto che l'Italia poi avrebbe continuato nell'assistenza in questo rapporto che era stato vissuto dalla popolazione in maniera abbastanza positiva. Si sente di sottoscrivere queste parole? No, diciamo che sì, in passato il rapporto non è stato male, ma diciamo che non si vive con il passato. Ultimamente diciamo che i governi italiani rispetto a questo governo dittatoriale hanno stanno riallacciando delle relazioni che secondo me sono molto pericolose per il popolo eritreo. Quindi il popolo eritreo può avere un rapporto molto positivo con l'Italia, con il passato. Ma io penso che con quello che si sta avvenendo questa cosa non può essere positiva, quindi dipenderà sempre dalla politica del governo e dal rapporto che ha rispetto al popolo eritreo. Una grande differenza dunque tra come venivano percepiti prima e come gli italiani, l'Italia, il governo italiano viene percepito adesso. Dania Vallone in 30 secondi. Innanzitutto le istituzioni devono ricordarsi che abbiamo firmato delle convenzioni internazionali sui diritti umani, quindi diritti umani sono tutt'altra cosa e vanno rispettati sempre seguendo le leggi. E per quanto riguarda l'informazione, lei mi aveva chiesto prima l'informazione, scarsa informazione, io mi rifiuto di pensare che gli italiani siano diventati così mostruosamente cinici. Evidentemente questo accade, la loro posizione è questa rispetto a questi rifugiati, perché sono scarsamente informati. Quindi il mio appello va soprattutto ai media, grazie di questa opportunità che ci avete dato oggi, perché non sono molti. Cioè cominciamo a parlare, facciamo riferimento anche ai rapporti sui diritti umani delle grosse organizzazioni come Amnesty International, Human Rights Watch, Giornalisti Senza Frontiere, che in continuazione danno informazioni sulla situazione eritrea. Esatto. E non dimentichiamo che chi viene respinto in Eritrea è condannato a morte. Esatto, chi fugge dalla persecuzione, dalla tortura e dalla morte certa in questi casi non può essere respinto, e di questo e della durezza della dittatura eritrea si parla in continuazione sugli organi di stampa internazionale, completamente scomparso invece questo Stato dalla stampa italiana. Grazie per il vostro tempo, Dania Vallone, Meari Desbele e naturalmente l'onorevole Rocco Buttiglione. Buona giornata. 349-238-6666, forse è capitato anche a voi di essere insultati, perseguitati in maniera anonima su un blog di internet o su qualche altra piattaforma analogica. Un'era che sta per chiudersi, forse. Comunque, una modella a New York, a seguito di una serie di diffamazioni contro di lei avvenute a opera di un'autrice sconosciuta, ha deciso di andare fino in fondo. L'ha segnalato a Google con il suo avvocato e Google ha fatto quello che comunque si fa in questi casi, il primo passo verso la tutela di chi è perseguitato, cioè ha rimosso il blog dalla piattaforma. Ma lei non bastava, ha chiesto e ottenuto, dopo mesi naturalmente di battaglie legali, di ottenere anche l'identità, anche il nome di chi aveva postato questi insulti terribili nei suoi confronti. Una sentenza senza precedenti, ha titolato la stampa americana. La Corte Suprema di New York per la prima volta ha costretto Big G a rivelare l'indirizzo dell'autrice, risalendo così alla conoscente della vittima, perché era una conoscente, si è scoperto, invidiosa. La sentenza rappresenta un importante precedente legale, l'impunità garantita dall'anonimato potrebbe venire meno in futuro. Questo per quel che riguarda l'arcipelago Stati Uniti. E in Italia a che punto siamo? Più avanti, più indietro? Dovremmo guardare a questa sentenza e adeguarci, o invece viceversa non ce n'è alcun bisogno? Guido Scorza, avvocato esperto della rete e presidente dell'Istituto Politiche dell'Innovazione. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. E secondo lei l'Italia è più avanti e più indietro rispetto a cosa sarebbe successo a una persona nella stessa situazione se fossimo stati in Italia? Avrebbe ottenuto lo stesso risarcimento morale, diciamo così, la possibilità di conoscere l'identità di chi la perseguitava? Ma tendenzialmente direi proprio di sì, non so se questo possa significare essere più avanti o più indietro, ma questo direi che è la norma in Italia così come in Europa. Gli intermediari della comunicazione, tutti, e quindi Big G tra gli altri nella sua funzione di fornitore di servizi di hosting, non c'è nessun dubbio che di fronte ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ritenga sussistente, perlomeno sulla base di una accertamento preliminare, così come è accaduto negli Stati Uniti d'America nella vicenda della modella, un illecito, è evidentemente tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria stessa e o alla parte che tali dati richiede attraverso l'autorità giudiziaria il nominativo, comunque i dati in suo possesso utili all'identificazione del responsabile della condotta. Questo lo dice molto chiaramente la disciplina italiana sul commercio elettronico, disciplina che è figlia di una disciplina europea, e quindi insomma possiamo stare abbastanza tranquilli che questa sia la situazione più o meno ovunque, almeno nel cosiddetto vecchio continente. Quindi grazie a questa legislazione europea si può dire che quanto accaduto a questa modella in realtà non sarebbe accaduto in Italia. Diciamo che probabilmente avrebbe fatto meno notizia, sarebbe certamente accaduto anche in Italia, perché non c'è nessun dubbio che in prima battuta le informazioni diffuse attraverso internet possono apparire informazioni diffuse da un soggetto mascherato, però quella è una maschera in Italia come nel resto dell'Europa destinata a cadere piuttosto facilmente di fronte ad una semplice richiesta della parte che assume di essere stata diffamata dinanzi all'autorità giudiziaria. Quindi una semplice richiesta, non c'è bisogno di impegolarsi in spese allucinanti per cause legali. Ma ahimè, il sistema giustizia in Italia non è gratuito per nessuno, quindi la semplice richiesta di cui parlo è sfortunatamente una richiesta che passa per i tribunali, è un costo inesorabilmente ce l'ha, ma è un costo certamente a portata di portafoglio per la fotomodella in questione, ma devo dire a portata di portafoglio probabilmente per i più, perché d'altra parte il soggetto che resiste è un soggetto che laddove abbia torto evidentemente si vedrà condannare al pagamento delle spese di giudizio. D'altra parte c'è da dire, e da qui probabilmente la posizione di Big G in questa partita, in quella che ricordavate prima negli Stati Uniti d'America, che l'alternativa è abilitare chiunque si senta diffamato, a prescindere dal fatto che lo sia effettivamente o meno, a pretendere in prima battuta la rimozione di un contenuto con evidentemente un sacrificio sul versante della libertà di informazione, e in seconda battuta addirittura di conoscere il nominativo del soggetto che ha postato, magari in maniera del tutto lecita, quel contenuto nello spazio telematico. Zozzona, questo è uno degli aggettivi che appariva su questo blog, ma è una tematica purtroppo anche drammatica, perché per esempio il bullismo, quello che conosciamo come angheria, prepotenza in genere fisica, così lo immaginiamo, in Nord America si concretizza molto con dei post anonimi su blog, su Facebook, all'indirizzo di vittime, soprattutto donne, perché è una forma di bullismo molto diffusa tra le ragazze molto giovani, anche di 11-12 anni, che vengono insultate, denigrate e isolate, con conseguenze terribili non solo sull'autostima e la depressione, ma addirittura che hanno portato anche a diversi casi di suicidio in Nord America. Tornando alla modella che ha vinto questa causa, Zozzona era una delle cose, che era uno degli aggettivi con cui la definivano, e poi tanti altri aggettivi che non stiamo a ripeterle. Questa sorta di conoscente molto invidiosa si divertiva appunto a parlare male di lei tutti i giorni. Spesso in queste situazioni alcuni semplicemente rinunciano a lottare perché sembra una causa persa in partenza. Lei no, sentiamo cosa ha raccontato. If somebody attacks somebody on the street, you're not gonna let it go. Se qualcuno aggredisce qualcun altro per strada, nessuno lascia correre. Perché avrei dovuto ignorarlo io? Non ho trovato una ragione per farlo. Quindi hai ottenuto l'indirizzo, il nome e l'hai contattata? È stata la prima persona che ho contattato. Ho detto, ciao, come stai? E lei mi ha risposto, bene, tu? Ho risposto, sono sicura che sai esattamente come sto in questo momento. E ho aggiunto, voglio che tu sappia che se io ho fatto qualcosa per meritarmi tutto questo, sono davvero dispiaciuta e mi scuso. E lei faceva, no, noi non dovremmo parlarne, dovremmo farlo solo attraverso gli avvocati. E io ho risposto, basta con gli avvocati, io ti perdono, non ha più importanza per me. Procederai legalmente per diffamazione? Sì. Non so sempre cosa mi sentirò di fare. Forse se si scusasse le cose potrebbero essere diverse. E abbiamo sentito questa telefonata, questo contatto, questa fine di un incubo per questa donna, una vicenda importante perché ha messo fine probabilmente a una pratica odiosa. Lei l'ha paragonato a un attacco, a un'aggressione. È un paragone azzardato, avvocato Guido Scorza. No, direi che certamente non lo è, perché la diffusività dei contenuti in uno spazio come quello telematico, accessibile trasversalmente a milioni di utenti, certamente può produrre conseguenze piuttosto gravi sulla personalità del soggetto aggredito nella sua sfera sociale. Certamente c'è da dire, e mi sembra questo l'aspetto più determinante, che cosa è responsabilizzare l'autore della condotta, l'amica di questa modella che aveva utilizzato internet, sentendosi evidentemente al riparo da eventuali contestazioni per offenderla, così come probabilmente non avrebbe fatto in uno spazio pubblico. Ed è successo anche in Italia qualche giorno fa, questi cinque ragazzi autori di una pagina dedicata all'insegnante, loro hanno tra i 14 e i 15 anni e avevano creato un su Facebook un post per ingiuriare la professoressa, un gruppo proprio su Facebook in cui parlavano naturalmente con termini utilizzando delle parole di vilipendio all'indirizzo di un insegnante. Ora dovranno rispondere di specifici reati, diffamazione a mezzo internet. Sì, non c'è dubbio che sia così, non è peraltro la prima volta che accade neppure in Italia, probabilmente ricorderanno anche gli ascoltatori il caso piuttosto celebre di Vivi Down, ragazzini torinesi che sbeffeggiarono e ripresero con un telefonino quella scena in un'aula di una scuola torinese, sbeffeggiando appunto un bambino Down. Beh, nei confronti di quei bambini, tanto nei confronti dei bambini autori delle offese, quanto nei confronti della ragazzina che aveva caricato poi il video su Google Video rendendolo accessibile al mondo intero, un giudizio si è celebrato ed è stato un giudizio che è arrivato ad una condanna anche piuttosto severa. Grazie avvocato Guido Scorza, ci fermiamo qui, 57 minuti trascorsi dopo le 8, grazie a voi che ci avete seguito. 24 mattino lascia il posto a 9 in punto da Irene Zerbini, un saluto.